Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Lunedì 15 dicembre 2008, 10 giorni a Natale, cominciamo a farvi gli auguri anticipati. Oggi parliamo di pensioni. Le pensioni sono tornate in questi giorni di attualità, soprattutto dopo le dichiarazioni, gli annunci del ministro Brunetta per voler innalzare l'età pensionabile delle donne dai 60 ai 65 anni, parificandola quindi a quella degli uomini. Ma anche sul Sole 24 Ore di oggi un'apertura: pensioni, riparte la corsa. E sono 800.000 i nuovi assegni previsti da INPS e INPDAP del 2009, con un aumento dell'8%. Un editoriale di Elsa Fornero: la recessione peggiorerà i conti, e Elsa Fornero è oggi con noi. Buongiorno, dottoressa Fornero. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Elsa Fornero è docente di economia all'Università di Torino e direttore del Centro di Ricerche sulle Pensioni e le Politiche del Welfare, uno dei maggiori esperti quindi italiani nel campo della previdenza. Io partirei dalle polemiche di questi ultimi giorni, dal ministro Brunetta, da questa richiesta di alzare l'età pensionabile per le donne. Ecco, dal punto di vista di una donna, che cosa ne pensa, dottoressa Fornero? Tanto penso che non sia un'idea estemporanea del ministro Brunetta, perché lei stesso ricorderà che qualche settimana fa l'Europa ci ha chiesto di procedere esattamente in questa direzione, nel senso che l'Europa è molto attenta, forse diversamente da quanto accade nel nostro paese, alle parità di trattamento tra diversi lavoratori e quindi anche alle differenze di genere. L'Europa disse che nell'ambito del pubblico impiego la differente età di pensionamento non era giustificata e che quindi l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi. Qualche giorno fa il ministro Brunetta ha esattamente detto questo: bisognerà adeguarci a questa disposizione della Corte europea e quindi bisognerà procedere in questa direzione. Quello che ha fatto è stato di dirlo in maniera un po' troppo polemica e quindi di farne subito una battaglia politica, il che non è encomiabile. Ecco, ma questo innalzamento dell'età pensionabile, questa progressiva parificazione è stata vista, è stata interpretata come una punizione, come qualcosa che appunto rende più difficile per le donne andare in pensione, ma invece ha anche un aspetto di opportunità, mi sembra, che lascia la possibilità alle donne di lavorare di più se vogliono. Assolutamente sì, così intanto dovrà essere, quindi non dovranno essere le donne obbligate a lavorare fino a 65 anni, questo è un assurdo. Ma il punto è che si tratta di un capovolgimento di mentalità. La mentalità che aveva all'inizio degli anni 70 portato il legislatore a consentire che nell'ambito del pubblico impiego le donne andassero in pensione a età inverosimilmente giovani, e cioè con 15 anni di anzianità contributiva, alcuni dei quali potevano essere stati dedicati alla maternità oppure al riscatto degli anni di laurea e quindi non corrispondevano sicuramente a 15 anni di lavoro effettivo. Quella norma era stata dettata con lo scopo, così è scritto negli atti parlamentari, di lasciare che le donne tornassero alle famiglie. Quindi c'era un'idea che il ruolo della donna è nell'ambito familiare, che il suo compito è quello di allevare i figli e che il suo compito è quello di accudire il marito e la casa. Questo era alla base. Quello che c'è oggi alla base di questa richiesta non è una punizione nei confronti delle donne, vi facciamo lavorare di più, ma è esattamente l'opposto, cioè vogliamo darvi la stessa parità. La stessa parità ovviamente va realizzata prima nel mercato del lavoro e quella pensionistica è una conseguenza, ma certo non può essere vista come punizione. Ecco, proprio le reazioni a cui lei accennava a questa proposta del ministro Brunetta fanno un po' il paio con altre reazioni che ci sono direi regolarmente quando si parla di intervenire sul sistema pensionistico. C'è sempre un atteggiamento quasi di blocco, quasi di conservazione, tanto che una delle riforme che erano state provate nella precedente legislatura, anzi due legislature fa, il famoso scalone Maroni, poi si è impiegata tutta una legislatura intera per smontarlo e per ritornare tornare indietro. Ecco, le pensioni sono un argomento molto caldo su cui è difficile fare delle riforme, però le riforme sarebbero, soprattutto in questa fase in cui si va verso una recessione di cui dovremo tutti sopportare un po' le conseguenze, le riforme appaiono necessarie. Dottoressa Fornero. Sì, guardi, le pensioni riguardano tutti, riguardano i giovani, riguardano le persone di età intermedia, riguardano gli anziani, riguardano ovviamente anche i pensionati e quindi sono un fatto di vita collettiva della società. E proprio per questo non si tratta di un provvedimento, che so io, in questi giorni si parla di cassa integrazione anche a favore dei lavoratori precari, benissimo, ma questo riguarda un segmento, è più facile trovare il consenso, ammesso che ci sia la volontà politica per farla. Le pensioni sono proprio un tema che riguarda tutta la società e allora è estremamente difficile trovare il consenso per realizzare qualcosa. Lei diceva occorrono riforme, io vorrei ricordare che è dal 1992 che questo paese sta realizzando riforme pensionistiche ed è anche, come dire, comprensibile che gli italiani non ne possano più, perché ogni volta che arriva un governo nuovo dice cosa dobbiamo fare? La riforma delle pensioni. E gli italiani pensano, ma non l'avevate già fatta la volta scorsa? E non hanno torto, perché c'è stata la riforma del 92, del 95, del 97, il 2001, il 2004, il 2005, il 2007, non sto inventando numeri, sono esattamente le riforme. Qualcuno dice, noi non amiamo le docce fredde come paese, cioè non amiamo le riforme che si applicano con una qualche immediatezza, con rapidità. Noi amiamo le riforme che vanno in attuazione coi tempi enormi, lunghi, cioè amiamo farle e dire che altri le realizzeranno. E quindi è stato così, per esempio, per quello a cui accennava lei. Maroni fa lo scalone, ma lo fa realizzare al governo successivo. Quello che nel frattempo interviene dice no, lo scalone non ci piace, l'ha fatto il governo precedente e quindi lo disfiamo. E adesso sono tornati al governo, tornata la Casa delle Libertà e quindi dice no, potremmo anche tornare allo scalone, salvo che in realtà non l'hanno proprio detto. Ecco, la ringrazio. Io ricordo gli ascoltatori, numero verde 800 24 0024 e lascio la parola a Marco da Torino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma io telefonavo sempre ovviamente per la riforma delle pensioni e mi ricordo che è appunto un tema ricorrente negli anni. Un dettaglio che è stato detto più volte è che all'INPS è accollato anche, diciamo, tutta una parte di spesa che non è strettamente di pensioni legate ai contributi, eccetera, eccetera, ma c'è anche una parte di assistenza sociale, pensioni di invalidità, ma di gente che non ha mai lavorato, quindi non ha mai versato contributi, eccetera. È una cosa abbastanza iniqua è che queste spese sociali, che è giusto che uno Stato si prenda, non si capisce perché devono essere comunque pagate soltanto dai contributi dei lavoratori dipendenti, dovrebbe finire nella cassa generale dello Stato, quindi pagato anche da tutte le altre tasse, oltre che dai contributi dell'INPS, anche dall'IRAP, dall'IRES, dall'IVA, cioè insomma non è giusto accollare queste spese qui soltanto una parte. Tolte queste bisognerebbe vedere quanto in effetti l'INPS è in disavanzo, perché comunque cioè, ogni mese ogni dipendente soldi ne versa all'INPS, quindi non è un ente che non incassa, forse spende troppo in punti in cui non sarebbe troppo di competenza sua, diciamo. La ringrazio, sì, il tema della separazione contabile, almeno tra previdenza e assistenza, è un tema che torna spesso a galla. Dottoressa Fornero. Sì, l'ascoltatore ha ragione per un verso e, se mi consente, non proprio ragione sull'altro. È vero che diciamo le pensioni sono trasferimento di reddito da quando si lavora a quando si è in pensione, si pagano coi contributi. Diversa è invece la questione dell'assistenza, che dovrebbe essere a carico delle tasse pagate da tutti e pagate possibilmente di più da chi ha redditi più alti, cioè progressive. questo tema è stato affrontato varie volte ed è già stato realizzato, anche se è un tema molto più, come dire, nitido nella discussione, come stiamo facendo noi ora, è molto più difficile nella realtà. Le faccio un esempio: le pensioni dei coltivatori diretti sono estremamente deficitarie. Sono deficitarie nel senso che i contributi che questi lavoratori hanno pagati sono nettamente insufficienti a pagare le loro pensioni, anche se a richiesta loro dicono abbiamo versato tanto, hanno pagato abbastanza poco. Dobbiamo chiamare queste pensioni assistenziali solo perché non si pagano da sole? Io non penso che tutti i coltivatori diretti, come dire, meritino l'assistenza pubblica nel senso di essere persone con pochissimi mezzi. Lo stesso capita, guardi, per le gestioni dei commercianti. Cioè, un conto è dire, è vero, la gestione dei lavoratori diretti, lavoratori dipendenti dell'industria privata, del settore privato, pagano l'aliquota più alta e hanno la gestione meno deficitaria. Questo è vero. Le gestioni dei lavoratori autonomi hanno gestioni più deficitarie. Quelle dei dirigenti, che consentivano per esempio belle pensioni, erano deficitarie e separate e sono confluite esattamente nell'INPS. Allora noi non possiamo chiamare assistenziali tutte quelle per le quali mancano i contributi, perché l'assistenza, è qui che ci vuole un criterio di discriminazione, l'assistenza va separata, ma sulla base di qualche condizione oggettiva. Ci vuole la prova dei mezzi, ci vogliono condizioni per esempio fisiche che impediscono al lavoratore di continuare a lavorare e cose di questo tipo. E invece noi abbiamo una spesa che è ampia perché il legislatore del passato ha promesso troppo e senza preoccuparsi di capire chi avrebbe pagato queste pensioni. Oggi dire che tutto questo, se lo portassimo fuori dall'INPS, metterebbe a posto i conti dell'INPS, e dire qualcosa che non sta in piedi, i conti dell'INPS continuerebbero a essere in disavanzo. Ecco, comunque anche sul fronte delle pensioni pagate dall'INPS esiste un intervento diretto dello Stato, cioè l'INPS di per sé. Assolutamente sì, oggi lo Stato interviene e paga una parte cospicua, altrimenti il disavanzo dell'INPS come si può finanziare? L'INPS non emette debiti e quindi tutte le volte che vengono a mancare i soldi interviene lo Stato, quindi lo Stato ha una copertura rilevante con mezzi propri che vengono da tassazione o dalla rinuncia a spendere in altro modo. Quando noi diciamo che lo Stato italiano spende troppo per le pensioni, è proprio perché lo Stato non può spendere su altri capitoli di spesa, perché deve pagare i conti dell'INPS. Anche oggi sembra una giornata complicata sul fronte del tempo. Lasciamo la linea alle notizie sul traffico. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Stiamo parlando di pensioni, di riforme possibili, di riforme necessarie. Ne parliamo con Elsa Fornero, docente di economia all'Università di Torino e direttrice del Centro di Ricerche sulle pensioni e le politiche del welfare. Lascerei la parola ad un ascoltatore, Luigi da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. La mia domanda, allora, le riforme che vengono fatte sono tutte atte, diciamo così, ad allungare l'età pensionabile per favorire le casse dell'INPS. Questo però crea un problema di ricambio generazionale, nel senso che le persone che non vanno in pensione impediscono ai giovani di poter aspirare a sostituirli, oltre ad essere un problema sociale, di conseguenza potrebbe essere anche un problema per l'INPS, in quanto giovani che non entrano nel mondo del lavoro non pagano i loro contributi. Allora la mia domanda è: perché non favorire una sorta di pensione anticipata del tipo, invece di andare a 40 anni si va a 35 anni con una riduzione percentuale di quello che invece sarebbe la pensione maturata a 40 anni, quindi una sorta di volontarietà in questo senso per favorire chi vuol lasciare il posto di lavoro prima, anche a costo, diciamo, di ridurre percentualmente la propria pensione. Beh, in pratica questa possibilità esiste già con le pensioni di anzianità. Una persona può andare in pensione a 58-59 anni con 35 anni di contributi, prendendo meno di quanto prenderebbe se aspettasse fino ai 65 avendo magari 40 anni di contributi. Professoressa Fornero. Sì, esiste già questa possibilità con la pensione di anzianità, ma non dimentichiamoci che la pensione di anzianità è congegnata in modo da costare molto allo Stato e da rappresentare una sorta di regalo che i contribuenti fanno a chi va in pensione di anzianità. Il meccanismo di cui parlava l'ascoltatore esiste in teoria, nel senso che è stato approvato da una delle riforme di cui parlavo prima, e cioè da quella del 95, e si chiama pensione contributiva. La pensione contributiva, che è stata una grande innovazione, però noi abbiamo messo da parte in attesa di realizzarla dopo 20 anni o più, o sì, anche molti di più. Allora, la pensione contributiva è quella che realizza due principi molto importanti. Il primo è: l'età di pensionamento non deve essere fissata dallo Stato, ma deve essere almeno in parte scelta dalle persone. Fa parte delle libertà personali, la gente decide a che età sposarsi, comprare casa, fare dei figli, e non si vede perché lo Stato deve dire a quale età bisogna andare in pensione, o almeno non lo deve dire in maniera rigida, deve fissare un minimo e lasciare che le persone vadano in pensione sulla base di considerazioni personali che attengono alle loro scelte familiari, di vita, di salute, eccetera. Ci sono però delle implicazioni: se una persona, avendo alle spalle, supponiamo, 35 anni di contributo, va in pensione a un'età più giovane di un'altra che ha la stessa anzianità contributiva, prende la pensione per un periodo più lungo, perché se va in pensione più giovane, la sua aspettativa di vita è più lunga, e allora questa persona deve ricevere una pensione più bassa perché la riceve più a lungo. Il meccanismo contributivo fa esattamente questo. Ma qui torniamo allo scarso coraggio dei nostri politici, perché questa riforma è stata fatta nel 95, ma andrà in vigore in maniera soltanto molto parziale, soltanto intorno dopo il 2015, e sarà pienamente in vigore soltanto dopo il 2035. Quindi si fa una buona riforma e si dice però sarà per le generazioni future. Questo non funziona. Quando gli squilibri sono troppo grandi, bisogna fare le riforme e applicarle magari in maniera parziale, ma subito, da subito, dal giorno dopo. Eh sì, i tempi sono certamente molto lunghi. Io vorrei spendere una parola anche sulla prima parte di quanto diceva gli ascoltatori, cioè il fatto che se le persone restano al lavoro a lungo, anche da, così, tra virgolette, da anziani, tolgono il lavoro ai giovani. Ecco, e secondo me dietro questa tesi c'è un'impostazione, un'idea di una società ferma, di una società bloccata. Invece la società dovrebbe essere per sua natura in crescita, dovrebbe tendere almeno a crescere, quindi pensare che il lavoro degli ancora tra virgolette anziani possa portare professionalità, capacità, esperienza e possa aiutare le aziende a crescere e quindi a creare posti di lavoro per i giovani. I posti di lavoro per i giovani si trovano con la crescita, con la competitività, con la produttività. Non è solo spostando, appunto, lasciando lo spazio ai giovani da parte degli anziani. Su questo Elsa Fornero. Sì, lei ha assolutamente ragione, in effetti anch'io volevo fare un'osservazione. L'idea è quella del lavoro come quantità fissa. E invece non è così. Il lavoro, noi dobbiamo avere una società che consente il lavoro di tutti, di tutte le persone che hanno, diciamo così, una normale capacità di lavoro, magari a diversi livelli, con diverse preferenze, ma che se non hanno problemi di salute o problemi fisici gravi, debbono esplicare una normale attività di lavoro. Allora, che come viene ribaltato il problema? È sul mercato del lavoro. È chiaro che se il mercato del lavoro è rigido, allora passa l'idea, per esempio, che se lavorano le donne questo sottrae lavoro ai maschi, che se lavorano gli anziani questo sottrae lavoro ai giovani. Ma il mercato non funziona così. Certo, il mercato può essere anche, come dire, come vediamo in questi giorni, può essere anche crudele, e allora un mercato che funziona e funziona, ripeto, in qualche caso anche con modalità crudeli, deve essere assistito molto bene da una rete di protezione pubblica che va a vantaggio di chi sta soffrendo per colpa anche delle fluidità del mercato, cioè del fatto che in qualche periodo qualcuno viene lasciato fuori, ma non sono sistematicamente tutti gli anziani, tutte le donne, perché c'è soltanto lavoro per il maschio adulto, e no, così non funziona. Quindi ci vuole una rete di protezione che noi non abbiamo avuto, perché noi abbiamo una tradizione di mercato del lavoro, adesso per carità le cose stanno cambiando, ma di mercato del lavoro molto molto rigido, costruito per la protezione di chi è dentro. E allora se dicevamo chi è dentro non può essere licenziato, non hai bisogno di un assegno di disoccupazione, hai bisogno di poca assistenza a chi esce dal mercato del lavoro temporaneamente, perché non li fai uscire, ma un mercato che funziona ammette anche che ci siano difficoltà, e però la pubblica amministrazione prevede degli aiuti sostanziali e non delle bricioline per le persone che hanno difficoltà. Questa è l'idea, di nuovo anche qui è un cambiamento culturale piuttosto grosso, anche sindacale. Ecco, c'è spazio solo per una battuta, dottoressa Fornero, ci sarebbero alcuni ascoltatori in linea e mi scuso se non ho tempo di dare loro la linea perché stiamo concludendo. Sul fronte del lavoro femminile ci sono molte domande e sarebbe giusto però intervenire durante la vita lavorativa per dare maggiori possibilità alle donne che hanno appunto il dovere anche di fare dei figli, di portarli avanti, di educarli. Intanto i periodi di congedi, così si dice, oggi si dice con termine brutto parentali, perché è giusto, i figli li fanno le donne, ma anche i maschi possono, i padri possono prendere dei periodi per aiutare, per occuparsi della cura dei bambini. Questo in Italia la possibilità c'è perché ce l'ha di nuovo imposto l'Europa, ma di fatto nessuno adotta queste scelte, non ci sono padri o pochissimi, magari tra i più giovani, che prendono congedi proprio per assistere. Questi congedi, sia che li prenda la donna, sia che li prenda l'uomo, debbono usufruire di contributi pagati a carico della collettività, quindi non ci sono penalizzazioni dal punto di vista della pensione per questi periodi in cui le persone, non necessariamente la donna, si occupano di bambini piccoli o di persone che hanno bisogni di cura nella famiglia. Ecco, io devo fermarmi qui, la ringrazio anche di questo invito, appunto a considerare anche sotto il profilo della famiglia l'uomo e la donna con gli stessi doveri. Ringrazio Elsa Fornero, docente di economia a Torino, editorialista del Sole 24 Ore, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Carmelo Valricella in regia, l'appuntamento è per domani.